Salve a tutti e bentornati a un'altra puntata dell'Arcadia. Grazie a Radio Big World, un'altra puntata per voi. C'era una volta un posto dove tutti dicevano la verità e si preoccupavano gli uni degli altri. Poi è arrivato l'egoista, il dittatore, l'ingannatore, il prepotente, il ladro e il bugiardo. E i bugiardi possono fare molti danni. Ci separano, ci dividono, ci manipolano e pezzo dopo pezzo distruggono l'umanità. La verità, a differenza, è un'ancora, una forza statica, è una connessione con la realtà, con noi e con gli altri. E sì, c'è sicuramente una parte della vita dove tutti mentiamo, ma i dittatori, quelli che hanno montato grandi bugie, sono quelli che fanno il danno più grande. Nonostante questo, ci sono persone che hanno basato la loro vita sull'onestà e l'integrità. Queste persone hanno sempre combattuto per tirare fuori la verità alla luce in modo che chiunque possa vederla. Hanno scelto di ammettere i propri sbagli, di scusarsi per le menzogne che magari hanno danneggiato o fatto soffrire altri. E la verità è tosta, può essere imbarazzante, ma è quello che è giusto ed è quello che può sistemare il mondo ed è l'unica cosa che ci permette di vivere in pace l'uni con gli altri ed essere felici in questa vita. Ed è esattamente quello che voglio provare a essere, una persona vera. E questo è il cambiamento che ho fatto. Io voglio essere una persona vera. Per alcuni questo sentimento per la verità e l'onestà arriva più in là, per altri arriva prima, per altri dopo. Ma mentre andiamo avanti con le nostre vite, succedono un sacco di cose che ci fanno pensare. Pensare al mondo in cui viviamo e come lo viviamo. Ho parlato spesso di queste cose e so che mi posso sbagliare. Io non ho paura a dire, probabilmente ho detto un sacco di cavolate finora, anche nelle puntate precedenti. Sicuramente c'è qualcosa di quello che ho detto e è sbagliato, non è tutto vero. Il fatto è che questo è un argomento che va ricercato. Quello che sappiamo lo sappiamo perché è 200-300 anni, se non di più, che generazione dopo generazione va avanti questa cosa, questa menzogna. Quindi, si è detto, succedono un sacco di cose che ci fanno pensare. Pensare al mondo in cui viviamo e come lo viviamo, cosa sentiamo. Sbagliare fa parte della strada per la verità. Più che per la verità, per trovare noi stessi, il nostro vero io, quello che siamo davvero. Ci sono alcune persone che criticano quello che faccio, quello che dico su queste cose, che pensano che siano discorsi ridicoli. Quindi c'è chi dice che non ho rispetto per chi lavora o ha basato la propria vita su queste, come le chiamo io, su queste bugie che ci hanno inculcato e dato per vere per anni. Ma queste persone criticherebbero anche se dicessi che il cielo è blu. Quindi vediamo un po' di dividere quello in cui mi rispecchio anch'io, quello in cui credo e quello in cui ci hanno insegnato. Quindi, perché credo si possa cambiare, si può cambiare. Se sono qui è perché si può cambiare. Credo si possa arrivare ad una verità comune che ci unisce invece di dividerci. perché mi sembra tutto un po' creato per dividerci, il fatto, no, ci diano la legge del più forte. Ma detto questo, ci sono, considerato la quantità di persone che credono che mi diverta a farmi prendere in giro, e vi assicuro che ce ne sono tante, vediamo a cosa veramente crediamo. Dal punto di vista piatto, la Terra è immobile, non si muove, ed è quello che possiamo osservare e provare tutti i giorni. Sfido io a trovare qualcuno che dice no, la Terra si muove, è impossibile. Il Sole e la Luna sembrano relativamente delle stesse dimensioni e che siano più vicini alla Terra, almeno è quello che sembra provare. Non l'ha mai provato nessuno, ma se per questo nessuno è mai andato sulla Luna. Quindi l'acqua, abbiamo detto che l'acqua non può curvare se non manipolata, e non abbiamo mai osservato niente di diverso in natura, tranne che l'acqua trova sempre il suo livello e rimane lì. Quindi chi è entrato nella tana del Bianconiglio ed ha scavato a fondo è arrivato alla conclusione che siamo il risultato di una volontà più grande ed intelligente di noi, che siamo stati creati o voluti in un certo senso. E invece dal punto di vista del globo, invece, cosa abbiamo, a cosa ho creduto fino a qualche anno fa praticamente, ed è quello che molti ancora continuano a credere e cercano di difendere con tutte le forze, fino a perdere anche, a arrabbiarsi, come abbiamo detto, fa prendere il nervoso quando qualcuno dà contro il tuo, quello in cui credi veramente. Quindi vediamo, abbiamo detto della Terra piatta, il globo. Un giorno il nulla è esploso, creando un infinito ed espansivo universo dove noi siamo un granello di polvere su cui viviamo, e che questo granello di polvere gira su se stesso e contemporaneamente intorno ad una gigantesca palla di fuoco sparata nel nulla più assoluto, che è a sua volta popolato da altre gigantesche palle di fuoco circondate da pezzi di roccia che gli girano intorno, tutto questo muovendosi nello spazio ad una velocità inquantificabile. Ora, già qui secondo me è fantascienza, ma se non siamo stati creati da qualcuno o qualcosa, se non siamo stati il frutto di una volontà, cosa ci dice la scienza? Da dove arriva l'uomo e tutto quello che ci circonda? Da una pozzanghera. Da una pozzanghera. Dal brodo primordiale, no? Da lì sono uscite tutte le forme di vita che conosciamo, tutte le no, è uscito le nuvole, è uscito gli alberi, le scimmie, le banane, noi, le mosche, sono tutte uscite da una cosa sola. Quindi siamo tutti collegati. Siamo collegati non solo alle scimmie, siamo collegati alle banane, alle arance, alle mele, agli alberi, ai fili d'erba. Siamo tutti la stessa cosa. Quindi se dicono che abbiamo in comune qualcosa con la scimmia, abbiamo in comune qualcosa anche con il filo d'erba che pestiamo fuori andando in giardino, perché veniamo tutti, secondo la scienza, secondo il globo, veniamo tutti dalla stessa cosa. Ovviamente miliardi e miliardi di anni fa, numeri che neanche si possano quasi pronunciare, detto così sembra quasi una favola, no? C'era una volta tanto tempo fa, miliardi e miliardi di miliardi di anni fa, no, che ci viene raccontata da quando siamo piccoli, che viene continuamente ripetuta ed abbellita durante la nostra crescita con viaggi spaziali, atterraggi lunari, magari nuove invenzioni che magari neanche esistano, magari te le mettono lì, te le fanno vedere ai telegiornali o in televisione, ma che poi dopo non vedrai mai. Insomma, quando ero piccolo c'era la macchina a idrogeno che non inquinava, non facevano vedere che potevi bere l'acqua che usciva dal tubo di scappamento. Questo più di 20 anni fa. E che è successo in questi 20 anni? Perché la macchina a idrogeno non esiste? Perché invece ti tirano fuori le ibride? Oggi ci sono le ibride, è la macchina che puoi decidere se andare o elettrica o a benzina. Ma perché questa benzina? Perché sempre la benzina? Insomma, 20 anni fa c'era le macchine funzionanti a idrogeno, che con un centesimo praticamente facevi pieno. Invece oggi no, oggi si è smesso di sentir parlare di questa cosa, non esiste più. Quindi è stata un'invenzione, anche quella me la sono immaginata, che avevano inventato la macchina a idrogeno, o no? Non, uno a cosa credere? Uno arriva a un certo punto della sua vita e si ferma e si fa delle domande. Dice, perché? Perché sono qui? Perché di solito uno fa questa cosa quando soffre. Quando soffre si sente a disagio, sta male, è triste. E quello che ho fatto io a un certo punto, mi sono fermato e ho detto, perché devo soffrire così? Se esiste davvero un Dio, perché devo soffrire così? Ma allo stesso tempo ho detto, in questa società, se siamo davvero una società, perché devo comunque soffrire così? Invece di aiutarci, invece di spingerci a competere gli uni con gli altri, no? Perché invece soffriamo? È stato questo che mi ha portato a pensare alla terra della terra, perché la risposta alla domanda perché siamo qui, forse detta così è un po' troppo semplice, però non la voglio far troppo lunga. Siamo qui per vivere la vita. La vita è un dono. So che sembra una cosa che va sul religioso, ma vi assicuro che almeno da parte mia non c'entra niente il religioso, perché anche la religione è una creazione dell'uomo, quindi ci sono delle verità e delle bugie anche lì. Il mio parere è questo. Quello che mi ha cambiato è stato questo pensiero, che la vita è un dono, ci è stato fatto questo dono della vita, dobbiamo cercare di essere felici nella nostra vita, la ricerca della felicità. Ma come possiamo cercare la felicità se corriamo a destra e a sinistra in continuazione? Ci fanno correre in circolo, ci pressano, ci schiacciano con tutte le cose che c'è da fare o ci danno da pensare. Non possiamo più godere il mondo per quello che è. Quanti sono in pochi. Sfruttiamo internet e Facebook per viaggiare, per godere dei viaggi degli altri, di quello che provano gli altri, le foto, dei posti, dei video, di quello che fanno. Ma perché non siamo noi a farlo? Perché siamo troppo impegnati in questo mondo finto, in questo mondo creato. Almeno questo è quello che, come la interpreto io la vita. Quindi però rimaniamo sui fatti, su ciò che è vero e possiamo dimostrare, e non tramite assurde formule matematiche che solo in pochi sulla Terra possono comprendere, o almeno fanno finta di comprendere. Se ci fidiamo della scienza, allora riponiamo la nostra fiducia in qualcosa che nessuno è mai riuscito a provare, come che la Terra si muove o che è saltato tutto fuori da una pozzanghera. Concentriamoci su queste cose. Dall'Arcadia è tutto, io sono Gabriele, grazie a Radio Big World e alla prossima.